Strade e motori. Strade e motori. Di Massimo Di Scienza. Buona domenica amici di Radio 24, partiamo oggi per un viaggio che ci auguriamo lungo ed interessante, un viaggio in cui ci occuperemo non soltanto di auto e moto, delle ultime novità, dei dati di mercato, delle informazioni di servizio, ma anche di tutto ciò che riguarda i temi della mobilità, dalle infrastrutture all'innovazione, dall'ecosostenibilità all'organizzazione e alla gestione del trasporto. Subito il nostro indirizzo email per interagire con noi, stradeemotori@radio24.it per le vostre segnalazioni, i vostri problemi, le vostre domande. Vi daremo spazio dalla prossima settimana. Allora partiamo da Detroit e dintorni. Termina oggi a Detroit il primo grande salone dell'auto dell'anno e questa l'occasione anche per riflettere, per capire come all'alba di questo 2010 stanno un po' ripartendo le case automobilistiche, cosa chiede il pubblico, dove va il mercato. Lo facciamo con un osservatore privilegiato, con Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore, che proprio è tornato nelle ultime ore da un viaggio approfondito negli Stati Uniti e quindi ha avuto modo di verificare, di toccare con mano, caro Andrea, buona domenica. Buona ciao. Domenica a tutti. Di toccare con mano, insomma, cosa sta accadendo, perché è proprio l'America al centro dell'attenzione, Andrea, no? Di questo inizio 2010. Partirei proprio dagli Stati Uniti. Il 2009 è terminato. Quali sono le prospettive per i grandi marchi americani, per le grandi case costruttrici americane all'alba di questo 2010? Sicuramente si respira un clima molto diverso da 12 mesi fa. 12 mesi fa, ricordiamo, sia la General Motors che la Chrysler erano sull'orlo del fallimento. Non si sapeva neanche se sarebbero sopravvissute appunto fino al salone successivo. Sappiamo cosa è successo, le due case sono state salvate con l'intervento del governo americano che le ha finanziate. La Chrysler è stata in qualche modo accasata con la Fiat che ne ha preso una quota significativa e soprattutto la gestione, ma quello che più conta è che le prospettive del mercato americano in termini di vendite e di domanda da parte dei consumatori sono migliorate, tant'è vero che tutti e tre i costruttori americani si sono presentati con delle stime di produzione per il primo trimestre di quest'anno nettamente più elevate rispetto a un anno fa. Al salone si sono presentati con una serie di prodotti orientati per lo più sulle dimensioni medio-piccole, ricordiamo che negli scorsi 10 anni avevano scommesso molto sui SUV, sui grandi pick-up che sono stati un po' tralasciati negli ultimi 2 o 3 anni dal mercato, quindi quest'anno si sono presentati, faccio un esempio, la Ford ha lanciato in anteprima mondiale la nuova Focus, che arriverà poi anche in Europa, ed è un modello che sostanzialmente verrà venduto sostanzialmente identico, con pochissime modifiche sui due lati dell'Atlantico e anche poi negli altri paesi, sul quale la Ford scommette molto per arrivare a volumi colossali. Pensate che l'obiettivo è, con una serie di veicoli derivati diciamo sulla stessa piattaforma, di arrivare a 2 milioni di auto vendute l'anno. Per quanto riguarda General Motors, anch'essa punta su un modello che è in comune con l'Europa, e cioè la Buick Regal, che è una berlina media, che è in sostanza la nuova Opel Insignia che è stata già lanciata l'anno scorso in Europa, oltre a una piccola Chevrolet, la Aveo, che è invece progettata in Corea. Quindi diciamo che mentre un tempo si andava a Detroit per vedere quali prodotti innovativi gli americani avrebbero lanciato e magari avrebbero potuto poi arrivare in Europa, di questi tempi gli Stati Uniti stanno un po' cercando di imparare dall'Europa la capacità di produrre auto medio-piccole a bassi consumi, a prezzi non troppo elevati e quindi più adatte a un'epoca di risparmio per il consumatore. Le parole ecologia, sostenibilità, elettricità, l'auto ibrida, insomma, immagino che siano rimbalzate con notevole fragore, con notevole importanza a Detroit. Da questo punto di vista come stiamo? Assolutamente, diciamo che il discorso prosegue sulla stessa linea, nel senso che oltre ad auto più piccole ed economiche, per appunto cercare di ottenere questi più bassi consumi, che ricordiamo sono un obiettivo dell'amministrazione Obama e un obiettivo in base al quale anche l'amministrazione ha finanziato i costruttori americani, uno dei metodi utilizzati è quello della propulsione ibrida. La Toyota ha aperto la strada con la sua Prius, di cui ha venduto, ricordiamo, quasi 200.000 unità l'anno scorso negli Stati Uniti. Al salone ha presentato un modello ibrido un po' più piccolo della Prius, che si chiama FTCH, Altre case l'hanno seguita su questa strada, sia con auto ibride, ricordiamo che per esempio la Ford Fusion ibrida ha vinto il premio di auto dell'anno 2010, oppure anche con auto a propulsione elettrica. Per la prima volta al salone c'è una cosiddetta Electric Avenue, cioè un viale, una sorta di viale interno al salone interamente dedicato alle auto elettriche, dove ci sono tra le altre delle auto che esordiranno già quest'anno nel 2010, come la Nissan Leaf o la Mitsubishi Miev. Diciamo che il 2010 sarà veramente l'anno decisivo per capire intanto quali saranno davvero le prestazioni dell'auto elettrica. Ricordiamo che ci sono ancora delle incognite per quanto riguarda l'autonomia, quindi quanti chilometri l'auto può fare con una carica, i tempi di ricarica e anche le infrastrutture che dovranno servire a ricaricare questi veicoli. Andrea, non possiamo che terminare facendo un accenno al terzo e ultimo colosso dell'auto americana che non abbiamo trattato nella prima parte del nostro intervento, ovvero Chrysler, che poi è anche Fiat Chrysler da qualche mese. Ecco, da questo punto di vista, quali sono le prospettive del 2010? Abbiamo visto al salone quelli che potremmo definire due stuzzichini, due antipasti di quello che potrebbe arrivare nel prossimo futuro dall'Europa verso gli Stati Uniti, cioè Fiat ha portato da un lato una 500 elettrica che si inserisce un po' nel filone appunto dell'auto elettrica, ma è più che altro un modo per presentare la 500 normale, quella benzina, che dalla fine di quest'anno, dal 2010, dovrebbe arrivare nelle concessionarie americane della Chrysler ed essere il primo prodotto europeo a essere venduto negli Stati Uniti. L'altro prodotto che è stato portato dalla Fiat a Detroit, che è un po' una provocazione, è una Lancia Delta, dove al marchio Lancia è stato sostituito il marchio Chrysler. È una provocazione, tra virgolette, volta a sondare un po' il mercato per capire se un prodotto di questo tipo possa essere interessante per il mercato americano, ma è anche un'indicazione di quello che ha già detto Marchionne, è il futuro dei due marchi, cioè Lancia e Chrysler sono avviati a una, diciamo, integrazione sempre maggiore, dove la gamma di prodotti verrà integrata con le macchine più piccole pensate e progettate in Europa e quelle più grandi pensate e progettate negli Stati Uniti. Quello che potrebbe succedere è che il marchio Lancia venga confinato ad alcuni mercati europei e in tutti gli altri mercati mondiali, dagli Stati Uniti al resto, prevalga il marchio Chrysler. Allora, staremo a vedere, come si dice in questi casi. Noi ringraziamo intanto Andrea Malan per questa sua analisi. Andrea, ti aspettiamo anche qui in studio per i prossimi appuntamenti con Strade e Motori. Vienici a trovare, perché è sempre un piacere ascoltarti. In ogni caso, buona domenica, grazie ancora e buon lavoro e a presto. Arrivederci. Si avvicina la fine del mese di gennaio e allora, come sempre accade in questo periodo, mano al libretto di circolazione e, ahimè, l'altra al portafoglio, perché arriva il momento della prima grossa scadenza per quanto riguarda i proprietari delle auto. Si avvicina infatti la scadenza di fine mese per il pagamento del bollo auto. Tante le domande, tanti gli interrogativi da proporre a Salvatore Moretto, dirigente degli uffici servizi tributari dell'Automobile Club d'Italia. Buon pomeriggio, buona domenica, dottor Moretto. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e anche a lei, naturalmente. Allora, dottor Moretto, chi è che deve pagare? Chi è che deve stare attento a questa prima scadenza dell'anno per quanto riguarda l'auto? Innanzitutto diciamo che sono molti, perché la scadenza di gennaio è quella più frequentata. Sono quasi 8 milioni di veicoli che a gennaio dovrebbero pagare il bollo, quindi 8 milioni di cittadini. E pagano entro il primo febbraio quest'anno, perché il 31 è domenica, quindi la scadenza viene posticipata al giorno successivo. Pagano tutte le vetture di potenza superiore ai 35 kW, se l'immatricolazione è avvenuta prima del 1 gennaio 98, che abbiano la scadenza del bollo naturalmente a dicembre. Se qualcuno possiede, ancora sono molti, un'auto un po' più vecchiotta, cioè immatricolata prima del 1 gennaio 98, il bollo deve essere pagato in cavalli fiscali, quindi pagano coloro che hanno una vettura di potenza superiore a 9 HP. Moretto, ricordiamo, stiamo riferendo a insomma macchine largamente diffuse, no? Sono la maggior parte del parco auto in circolazione, quella è la tipologia a cui si fa riferimento. Certo, sono la stragrande maggioranza dei veicoli che hanno scadenza a gennaio e che circolano tra l'altro sulle strade italiane. Come calcolare l'importo? Ecco, non è facilissimo, per questo tutti gli operatori del settore, in prima linea naturalmente l'Automobile Club Italia, mettono a disposizione sistemi di calcolo automatico, perché bisogna, a seconda del tipo di veicolo e dell'euro di appartenenza del veicolo, quindi in base alla capacità inquinante del mezzo, moltiplicare i kilowatt per un importo fisso che nella stragrande maggioranza dei casi è per i veicoli Euro 0, 3 euro, facciamo degli esempi, mentre sì, per un veicolo Euro 4 o Euro 5 sono 2,58 euro. Se la macchina, se il veicolo poi è particolarmente potente, quindi ha una potenza in kilowatt superiore ai 100, e per tutti i kilowatt superiori ai 100 occorre pagare invece per 1,0 euro 4,50 euro a kilowatt e per 1,4 euro o 5 3,87 euro. E prendiamoli come esempi, il consiglio che noi possiamo dare è o di recarsi a pagare il bollo auto in uno dei soggetti che offrono il calcolo automatico, oppure si può accedere al sito dell'Automobile Club Italia e verificare con la funzione di calcolo bollo quanto deve essere versato per la propria autovettura. Ecco, perché poi il come e il dove si paga varia un po' a seconda delle regioni, insomma il sistema è un po' complicato. Vogliamo riassumere i tratti caratteristici e le novità di quest'anno, Moretti? Allora, si può pagare il bollo comodamente con un sistema di calcolo automatizzato ormai da anni presso, come ricordavamo prima, tutte le delegazioni dell'Automobile Club Italia, dove si può ricevere anche assistenza. Sistema di calcolo automatizzato lo offrono anche i tabaccai, lo offrono anche gli studi di consulenza, cioè le agenzie di pratiche auto non ACI che siano state autorizzate al servizio di riscossione, di norma espongono una vetrofania all'esterno dell'ufficio. Si può pagare online anche presso gli uffici postali, gli uffici di Poste Spa. Ecco Moretto, per chi invece dovesse dimenticarsi, nonostante i nostri inviti e i nostri promemoria, per i ritardatari. Allora, per chi avesse dovuto pagare il bollo entro il 1 febbraio, ma non lo ha fatto, può farlo entro 30 giorni dal termine di pagamento e pagare una sanzione che è abbastanza contenuta, che è il 2,5% dell'importo del bollo più gli interessi. Se invece ci attardiamo di più, paghiamo comunque entro l'anno l'importo della sanzione del 3% più gli interessi calcolati giorno per giorno. Se paghiamo oltre i 12 mesi dal termine di pagamento, la sanzione diventa consistente ed è del 30% dell'importo del bollo auto. Allora, grazie a Salvatore Moretto, dirigente dell'Ufficio Servizi Tributari dell'ACI, ci ha così rinfrescato un pochino la memoria. A questo punto non resta che pagare, è il caso di dirlo. Buona domenica Moretto, a presto! Buona domenica, grazie! Strade e motori. Strade e motori. Di nuovo insieme per la seconda parte di Strade e motori. Ripartiamo con un po' di notizie e poi scopriremo il futuro dell'Alfa Romeo. A Parigi, giovedì e venerdì scorsi, la Citroën ha presentato la nuova DS3, l'erede della storica DS che fu un cult degli anni 70. Il piccolo coupé tre porte cittadino di Citroën misura quasi 4 metri, ha un bagagliaio da 285 litri e un comodo cruscotto rialzato. 5 i motori, 2 turbo diesel e 3 benzina. Il prezzo base, 14.400 euro. Il gruppo Giugiaro sbarca negli Stati Uniti con le auto ibride. L'azienda italiana ha firmato un contratto da oltre mezzo miliardo di dollari per la progettazione di un'intera gamma di vetture per la HK Motors, una nuova azienda americana con capitali cinesi. Produzione prevista 300.000 auto all'anno entro il 2013. 2010. India batte Italia. Il mercato dell'auto del gigante asiatico nei prossimi 12 mesi scavalcherà per la prima volta quello nostrano, superando le quasi 2 milioni di vetture immatricolate nel 2009. Al top delle vendite la Maruti, la controllata indiana della giapponese Suzuki. È il Veneto, la regione italiana dove l'auto è considerata più indispensabile nella vita di tutti i giorni. Subito dietro, nella classifica che emerge dalla ricerca commissionata da Europe Assistance, Umbria, Marche e Sardegna. La regione dove c'è meno bisogno dell'auto, invece, è la Liguria, davanti al Trentino Alto Adige e al Friuli. La prima vettura marchiata Alfa Romeo è la Torpedo del 1920. Un anno importante per la casa del Portello, che ottiene la prima vittoria di prestigio sul circuito del Mugello. Il dibattito è in corso. Quale sarà il futuro dell'Alfa Romeo, soprattutto dopo le parole forti dell'amministratore delegato di Fiat Chrysler Marchionne a Detroit? Ne parliamo con Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote. Buona domenica, direttore, ben trovato. Buona domenica a voi, grazie. Eccoci qua. Vogliamo ricordare, direttore, qual è il problema sollevato da Marchionne da Detroit sull'Alfa? Cosa ha detto Marchionne? Marchionne ha detto che nell'Alfa sono già stati spesi troppi soldi, che questi soldi non hanno dato assolutamente un ritorno soddisfacente, che ci sono modelli dell'Alfa Romeo, in particolare la 159, che è la berlina media dell'Alfa, che lo stesso amministratore delegato della Fiat definisce non all'altezza di battere la concorrenza tedesca. Quindi, siccome una nuova generazione di modelli richiederebbe degli investimenti nell'ordine del miliardo di euro, Marchionne dice: spenderò i soldi altrove, dove ci sono dei ritorni più consistenti, e per l'Alfa il futuro è tutto da costruire. Ci sono ovviamente vari livelli di valutazione, no, in base a queste parole. La prima domanda che ci facciamo, e immagino che si pone anche lei, ma perché Marchionne parla in fondo della propria gestione in maniera così netta e negativa? Io credo che Marchionne abbia in testa un obiettivo molto preciso, che è quello di trasferire negli Stati Uniti, negli stabilimenti Chrysler, la produzione delle Alfa Romeo, appunto dal cosiddetto segmento D, che è quello della 159 a cui ci riferivamo prima. È ovvio che un passaggio di questo genere non può avvenire in modo indolore, perché Alfa Romeo è un pezzo di storia del Made in Italy, e quindi bisogna in qualche modo far presente che la situazione non è buona, la situazione anzi è drammatica per l'Alfa, perché parliamo di una casa che vende soltanto 100-110 mila macchine all'anno, con un potenziale molto superiore, e quindi Marchionne vuole un pochettino scuotere l'albero per far cadere i frutti che vuole, che sono appunto quelli di una sostanziale rivisitazione dell'assetto produttivo del marchio Alfa, portando oltreoceano, appunto, negli stabilimenti Chrysler non solo l'Alfa ma tutto l'alto di gamma del gruppo Fiat. E ovviamente, come dicevo prima, non è un'operazione banale, insomma. C'è chi dice però a questo punto tanto vale l'Alfa venderla, visto che gli eventuali compratori non mancherebbero, no? Dunque, da quello che si è capito, effettivamente il gruppo Volkswagen sarebbe interessato e disponibile a rimettere in piedi l'Alfa, anche perché Volkswagen è pieno di transfughi italiani e soprattutto è fatto da manager che hanno una grande passione per l'automobile, e come dicevo l'Alfa è la storia dell'automobile. Però è anche vero che la Fiat probabilmente ha ancora bisogno dell'Alfa Romeo, perché se vuole raggiungere con le sue piattaforme più importanti, che sono quelle appunto della Punto e della Mito e quella della Giulietta e della Bravo, vuole raggiungere certi livelli di produzione, addirittura si parla di 1 milione di pezzi per ogni piattaforma industriale, in realtà dell'Alfa ci sarebbe bisogno, anche perché poi le Alfa Romeo sono le macchine che si vendono ai prezzi più vantaggiosi, nel senso che lì c'è un premium rispetto ai modelli Fiat, che consentono anche di fare dei margini di guadagno più interessanti. E quindi io non credo che Marchionne alla fine decida di vendere l'Alfa. Lui stesso ha detto: non voglio vendere il marchio e non voglio fare il macellaio dell'Alfa, però vuole rivedere completamente sia la gamma sia l'assetto produttivo dell'Alfa, perché quello che lui dice è: se continuiamo semplicemente a cercare di fare concorrenza ai modelli tedeschi ma con una capacità di investimento infinitamente superiore a loro, rischiamo semplicemente di farci del male, e quindi tutta la struttura dell'Alfa Romeo verrà rivista. Molto probabilmente non si farà più una berlina che sostituisca la 159, e l'Alfa Romeo invece andrà verso modelli tipo un SUV compatto, che in questo momento hanno più successo e che alla Fiat costerebbero poco per essere sviluppati, perché sostanzialmente nascerebbero su base dei modelli americani della Jeep. Grazie a Mauro Tedeschini, direttore di Quattro Ruote, per averci fatto compagnia in questa domenica pomeriggio. Direttore, non vediamo l'ora di sfogliare il nuovo numero di Quattro Ruote che esce proprio nei prossimi giorni. Allora, a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima settimana, così ci introduce insieme alle novità che troveremo in edicola, va bene? Con molto piacere, buona domenica ancora a tutti. Ora parliamo di revisioni, le revisioni che non riguardano soltanto chi possiede un'auto, ma anche chi ha una moto, che deve essere revisionata con una certa continuità e con delle scadenze molto precise e molto importanti. Sono tanti gli italiani un po' smemorati, quelli che dimenticano queste scadenze. È per questo che vogliamo creare un vero e proprio memorandum, un promemoria, e lo facciamo grazie al contributo di Andrea D'Alisca, direttore generale di Decra Revisioni. Buona domenica, D'Alisca.